Certe volte basta una frase per creare il clima giusto. E la frase che oggi ci dà la prima lettura, la Colossesi capitolo 3, è questa. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù dove Cristo è risorto ed è alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Io mi fermo su questa semplice frase, faccio l'esame di coscienza per me stesso e se qualcuno di voi gli serve lo faccia anche per lui. Ma io, noi, pensiamo alle cose di lassù? E badate che non vuol dire pensare alla nostra morte o alla morte dei nostri. Pensare alle cose di lassù vuol dire pensare a Gesù Cristo, dove Cristo sta. Il brano di oggi sarebbe ricchissimo e enumera per esempio 10 vizi che noi dovremmo evitare se vogliamo pensare a Gesù Cristo, perché come si fa a pensare a Gesù Cristo avendo l'ira, avendo l'impurità, l'idolatria, le maldicenze, le parole oscene sulla nostra bocca? Come si fa a pensare a Cristo mentre si fanno queste cose? Sarebbe interessante fermarci a riflettere sulla parola di Dio, che è un grande esame di coscienza, ma io per non essere lungo volevo suggerirvi solamente 2 o 3 spunti come si fa a pensare alle cose di lassù. Si pensa alle cose di lassù se noi preghiamo. O ben se è per quello io prego normalmente, mi dice tanta gente, anche gente che magari dice io non vengo in chiesa, però io non manco di pregare le preghiere, soprattutto quando ho bisogno, mi dice. Ecco, qui si fa il primo sbaglio. Noi confondiamo la preghiera con il domandare. Provate a riflettere se non è così. Noi domandiamo la salute, va bene. Se un nipote deve fare l'esame, nonna, prega per me. Se un nostro caro non ha lavoro o ha un lavoro precario, preghiamo, Signore, ti raccomando. Se una persona... Noi chiediamo, chiediamo, chiediamo. Questa, anche questa è preghiera, ma non è la preghiera più bella. È come se tu vedessi che tuo figlio sposato non viene mai a trovarti, te nonna, te nonno, se non quando ha bisogno. Sai, mamma, sono un po' alla corta, mi è arrivata una bolletta un po' esagerata, non potresti prestarmi 200 euro, sai, poi te li restituisco, no? E la mamma, se può, va incontro al figlio, però brontolando, dicendo, ehi, ti vedo solo quando hai bisogno, eh? Mai una telefonata, mai una volta che vieni a trovarmi gratis. E così facciamo noi col Signore, quando preghiamo chiedendo. Allora pregare è anche questo, ma soprattutto pregare vuol dire salutare, lodare, stare in compagnia di. Se tu vai a trovare tua mamma, anziana, è stare in compagnia di tua madre. E qual è il modo per stare in compagnia di Dio? Beh, uno lo state vivendo, siete venuti a messa un giorno feriale, avete lasciato la vostra casa. Non eravate obbligati, non venite normalmente per chiedere niente, sapete che si celebra la messa, venite a messa. Un altro modo per pregare bene, ascoltate o ascoltate, è il rosario. Questa preghiera così poco conosciuta da tanta gente, ma che viene rivalutata da molti altri, ti permette, se sei un po' concentrato, di dire il rosario pensando certamente alle persone per cui tu preghi, ma pensando anche ai misteri della vita di Gesù e della Madonna. E mentre li fai passare, tu pensi alle cose di lassù, pensi alle cose di Dio. Infine c'è un ultimo modo per pregare che secondo me è il più bello, ed è quello di cantare. Cantare in onore di Dio, perché quando tu canti in onore di Dio o della Madonna, tu non chiedi niente, tu lodi. Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far... Noi canteremo al Signore un cantico nuovo. Alleluia, santo. E allora io vi incoraggio, ho sentito prima che cantavate già bene, vi invito a cantare. Pensate che una volta un camionista della mia parrocchia mi dice: Don, posso portare via dalla chiesa un libretto di preghiere, perché quando sono in cabina nel mio camion io canto le canzoni di chiesa? Gli ho detto: Ettore, mi fai felice, porta via il libretto che tu vuoi e canta. Non sarebbe bello cantare mentre stiri, mentre fai giù la polvere, mentre fai qualche cosa di non impegnativo per la tua mente? Invece, con il canto si pensa alle cose di lassù. È l'augurio che vi faccio.